U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Mercedes. Cognome: Bresso. Età: 71. Nata a Sanremo. Eletta in? Nel collegio del Nord-Ovest. Con quanti voti? Un po' più di 100.000. Partito politico? In Italia i Democratici e in Europa il gruppo SND, Socialisti e Democratici. Segni particolari? Forse quello che sono una federalista accanita. Quante lingue parla? 3, compreso l'italiano, inglese e francese. Competenze europee in 10 parole? Sono stata presidente del Comitato delle Regioni e presidente dell'Unione Europea dei Federalisti e da sempre lavoro su queste due questioni, il federalismo a livello europeo e quello a livello regionale. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Cosa prevede la nuova strategia UE per la macroregione alpina? Una strategia macroregionale serve per far lavorare insieme territori che in passato sono stati a volte uniti, a volte divisi. Quella per la macroregione alpina comprende attività soprattutto legate all'ambiente, alla connessione che nelle aree alpine materiale e immateriale che nelle aree alpine è molto difficile e poi l'innovazione, lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Sussidiarietà e politiche regionali in Europa. La sussidiarietà vuol dire lavorare il più vicino possibile al cittadino, quindi secondo me a livello europeo una vera sussidiarietà vuol dire arrivare a livello delle regioni e degli enti locali, non fermarsi a quello degli stati. Unione Europea, coraggio o autolesionismo? Sicuramente coraggio, come dice Habermas, se non siamo uniti non faremo parte della storia futura del mondo. Perché l'Europa piace sempre meno? Ma è difficile da dire, credo che quella che piace sempre meno in questo momento sia la politica, però in tempi di crisi la storia ci dice che i nazionalismi e gli egoismi tornano a fare capolino, diventano sempre più importanti e questo credo sia la ragione per cui l'Europa piace poco. Brexit, in sintesi pro e contro. Ma pro potrebbe servire a dimostrare che si sta peggio fuori che dentro l'Europa. Contro, io credo che sia sbagliato che gli inglesi scelgano di andarsene perché dell'Europa nel bene e nel male fanno sempre parte da sempre. Il suo motto? Il mio motto è quello dell'Europa, uniti nella diversità. Non credo che ci sia nessun modo per stare uniti e per farlo bene, che rispettare le diversità di tutti. Tra 10 anni l'Europa sarà? Eh beh, da federalista io dico sarà uno Stato federale. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.